GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le due vittime della frana di Brazzano e il lutto di un'intera regione, recuperato nella notte il corpo dell'anziana dispersa. Il punto sugli evacuati in comune di Cormons, 80 persone fuori dalle loro case, il racconto del sopravvissuto al crollo, era andato con il vicino tedesco ad allertare, la donna poi rimasta sepolta li ha visti sparire entrambi sotto il fango e le macerie. 300 sfollati a Versa, frazione di Romans finita completamente sott'acqua, prime idrovori in azione per cercare di tornare in breve tempo alla normalità. Alluvioni e gestione dell'acqua negli ambienti urbani, un convegno a Trieste. La conferma di Giuliano Polo alla Fondazione del Teatro Verdi di Trieste, intervista con il soprintendente. I collegamenti telefonici in montagna e la connessione dati, un vertice in prefettura a Pordenone. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gerlinzoni. In apertura ancora le drammatiche conseguenze dell'ultima ondata di maltempo in regione, in particolare nelle province di Gorizia e Udine. A Brazzano è stato recuperato nella notte anche il corpo della seconda persona dispersa dopo la frana che ha travolto alcune case. C'è il nodo degli sfollati perché c'è molta incertezza sul ritorno alle case nella zona teoricamente minacciata da altre frane. Su questo e sull'emergenza cominciata nella serata di domenica abbiamo raccolto alcune voci tra i cittadini. C'è poco da dire, qua si è proprio staccata anche un pezzettino di collina. Non c'è l'altezza, lo spessore di questa frana è considerevole, non è solo lo scioglimento del terriccio, quei 20-30 centimetri superficiali, no? Qua è venuta proprio giù, quindi questa enorme massa si è staccata perché è venuta giù tanta acqua, è venuta giù tanta terra. Lei non ha avuto grandi danni, per fortuna, anche se era vicino. Sì, è molto vicino, il pensiero era lì, sono venuto a vedere se avevo roba in cantina, invece è entrato pochissimo e quindi mi ritengo fortunato visto questa disgrazia. Conosceva le due persone che sono rimaste travolte? Conoscevo, sì. La signora era una mia coetanea, quindi la conosco da tanti anni, perché abbiamo fatto le feste di classe per molti anni. E questa collina, voi avevate avuto qualche sentore che potesse succedere qualcosa? No, non ha mai dato segno così di cedimenti o quant'altro, no. Come si vive questo giorno dopo? È calata una tristezza su tutta la nostra comunità, e tutti abbiamo un grosso peso sul cuore, solo pensare ti prende un nodo alla gola, è una cosa indescrivibile. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Brazzano le due vittime del crollo e un sopravvissuto alla frana che ha travolto le case. È l'uomo che con Kvirin Kunert aveva cercato di allertare Guerrina Skocai perché si mettesse in salvo. Lo abbiamo incontrato. Morto d'eroe, è lui che ha organizzato il soccorso, è lui che mi ha chiesto di prendere la scala, è lui che si era messo sicuro, lui e la compagna, ed è tornato indietro, quindi Quirino in quel momento ha fatto un atto di estremo altruismo. Parla da un letto d'ospedale con il femore rotto Matteo, sopravvissuto al crollo della sua casa a Brazzano, frazione di Cormons. Lo chiama Quirino, parla di Kvirin Kunert, il 32enne tedesco morto nel tentativo di salvare l'83enne Guerrina Skocai, anch'essa uccisa dalle frane. La cascata d'acqua nell'ultimo video di Kvirin, un paio d'ore prima. Assieme a Matteo prendono una scala per raggiungere Guerrina che chiamava aiuto. Lui stava tenendo la scala e la signora era praticamente arrivata giù e in quel momento loro sono rimasti travolti sotto, travolti dalla frana, e invece tutto sbalzato dall'altro lato della strada, al lato opposto della strada, quindi 5-6 metri. Ero in cima alla scala, quindi sono rimasto in superficie. Padovano Matteo, bavarese Quirino, entrambi avevano scelto Cormons, innamorati di questo territorio. Quirino aveva aperto un'attività commerciale. È stato un brutto momento vederli sparire sotto loro due. Io mi sono trovato da un'altra parte in un battito di ciglia. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un altro dei luoghi colpiti più severamente, la frazione di Versa in comune di Romans, finita tutta sott'acqua. L'evacuazione dei cittadini è stata ultimata ieri a tarda sera. Sentiamo qual è in questo momento la situazione. A Versa oggi è il giorno del ritorno per i 300 residenti, l'acqua è scesa di livello, non è più sulle strade, ma è un ritorno amaro perché tutto ciò che è al piano terra ma anche nei giardini è praticamente da buttare, elettrodomestici, documenti, mobili e ovviamente impianti della luce e del gas da rivedere e ricontrollare e rimettere a posto. Si opera con l'aiuto dei vigili del fuoco e della protezione civile e con l'aiuto delle idrovere, ma molti lavorano e puliscono semplicemente con le scope e con i secchi. Questa dunque la situazione a Versa. Per fortuna aiuta una giornata di sole dopo l'alluvione di ieri, che dicono è arrivata sostanzialmente all'improvviso verso le 5:30 del mattino. È bastata un'ora perché l'acqua che prima era arrivata piano poi invece è stata come un'onda impetuosa a distruggere tutto quello che trovava per la via. Abbiamo visto decine e decine di auto ferme, danneggiate, che dovranno essere gettate via, dovranno essere rottamate. Le 300 persone sono state ospitate da parenti, amici, da alberghi, e una decina di loro invece anche nella palestra di Romans di Sonzo, dove si allestisce una sorta di centro logistico. L'area di Versa è completamente inaccessibile agli estranei, a chi non è residente lì, a chi non è amico di residenti, oppure ai giornalisti che ovviamente hanno l'accesso per documentare quello che è successo, quello che sta accadendo. I danni sono ingenti e quello che i cittadini di Versa ci hanno detto è speriamo che qualcuno ci aiuti. Romans di Sonzo, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco nelle prime ore di ieri, i rinforzi sono arrivati nelle zone più colpite da tutti i comandi regionali e dal Veneto. Il ministro per la protezione civile Musumeci ha firmato già ieri la mobilitazione nazionale che permetterà alle altre regioni di supportare il Friuli Venezia Giulia. Tra le prime a rispondere l'Emilia Romagna, che attraverso il presidente Pascale ha fatto sapere di essere pronta a mettere a disposizione uomini e mezzi. Danni e disagi anche in provincia di Udine per la forte pioggia intensa caduta nelle scorse ore. Tra gli altri colpiti i comuni di Chiopris, Viscone, San Giovanni a Natisone, Corno di Rosazzo, Trivignano Dinese, Gonars, Prepotto. A Visco, locali interrati a primi piani allagati in edifici residenziali con conseguenti blackout, ma l'emergenza sul posto al momento sembra rientrata, come ci ha raccontato la sindaca Elena Cecotti. Sentiamola. La situazione per fortuna è rientrata, quindi a seguito degli interventi che si sono svolti ieri grazie ai volontari di protezione civile e alle squadre dei vigili del fuoco, le famiglie che avevano degli allagamenti importanti sono state messe in sicurezza. Grazie anche al bel tempo di oggi, per fortuna, la situazione appunto è rientrata e non abbiamo più alcuna situazione emergenziale. Rimane solo un piccolo punto critico, ma essendo una strada interpoderale, campestre di secondo interesse, in questo momento non c'è necessità di intervento, stiamo aspettando che l'acqua defluisca naturalmente. Quante sono le famiglie che hanno avuto problemi nel vostro comune? È circa una ventina, con allagamenti molto importanti, altre con situazioni di minore disagio. Siamo partiti dalle situazioni, diciamo appunto, di minore disagio con alcuni centimetri d'acqua al piano, rispetto ad altre famiglie con i piani interrati, garage scantinati, completamente allagati e quindi con anche gravi danni di tipo economico materiale. Un vertice è stato fatto questa mattina in prefettura a Gorizia per fare il punto sull'emergenza maltempo e soprattutto sulle conseguenze per le infrastrutture. Ci sono 3 mandamenti coinvolti: Cormons, Romans e Medea. Stiamo parlando delle strade. Qualche settimana di lavoro sarà necessaria per riaprire la direttrice Monfalcone Gradisca Udine. Difficile in questo momento ipotizzare appunto una riapertura. La provinciale Brazzano Dolegna in ambo i sensi di marcia è chiusa per una frana importante, anche la regionale 409 di Plessiva all'altezza della chiesetta del monte prospiciente alla chiesetta, franato, percorribile in entrambi i sensi di marcia ma a senso alternato. A Romans il tratto verso Versa è chiuso, una volta pulito il manto stradale stradale potrà essere riaperto e ancora la viabilità tra Medea e Chiopris è chiusa perché l'acqua ha scavato un solco importante. La terza edizione del Festival dell'Informazione Il Mondo Fuori, organizzato dal Comune di Cormons, è stata annullata in seguito agli avvenimenti che hanno colpito la frazione di Brazzano, la città e tutto il territorio. Il festival, ricorda una nota, si sarebbe dovuto svolgere da dopodomani, giovedì 20, fino a sabato 22 novembre, con un programma dedicato al tema Raccontare il confine, storie e immagini tra passato, presente e futuro, in omaggio a Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Di alluvioni e più in generale di come gestire l'acqua negli ambienti urbani si è parlato in un convegno all'Università di Trieste, organizzato da tempo ma mai così attuale di fronte a quanto accaduto nelle ultime ore nel Goriziano e in parte della provincia di Udine. Ascoltiamo. Come si può evitare che le case finiscano sott'acqua, che i fiumi escano dagli argini, che le strade si allaghino? Ne discutono a Trieste professori di tutta Italia che da anni lavorano su questi temi, a cui chiediamo un commento su quanto accaduto nel Goriziano. Precipitazioni intense e concentrate, ci dicono, saranno sempre più frequenti e mettono a rischio in particolare fiumi con bacini piccoli, come il Torre esondato a Versa. Federico Roman, docente di costruzioni idrauliche all'Università di Trieste. Ci sono vari aspetti che vanno presi in considerazione, non c'è una soluzione. Una delle possibili soluzioni è ad esempio quella appunto di usare delle casse in espansione. Cosa significa? Cercare di trattenere dei volumi che si sa che in una certa zona non potrebbero passare perché il corso d'acqua passa dentro una zona ristretta, dentro un centro urbano. Opere di mitigazione, quindi, ma innanzitutto adattamento e prevenzione dei disastri. 12 milioni di persone in Italia sono esposte al rischio di allagamenti. Corrado Gisonni, Università degli Studi della Campania. Quelli che sono anche i sistemi di preannuncio devono in qualche maniera essere coniugati con una preparazione della popolazione a rispondere. Non dimentichiamo che nell'ultima alluvione che c'è stata nelle Marche ci sono state vittime dell'alluvione dovuta al stupido, mi passate il termine, tentativo di recuperare la macchina parcheggiata in locali interrati. Non va dimenticato l'altro lato del cambiamento climatico, la siccità, che fa sì che sia necessario un ripensamento complessivo della gestione dell'acqua nei territori. Patrizia Piro, Università della Calabria. Pensiamo alle coperture verdi, agli orti urbani, alle pavimentazioni permeabili, e sono tutte opere che servono per accumulare, per trattenere il deflusso che altrimenti scorre incontrollato, provocando danni a persone e cose. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E allora diamo uno sguardo al tempo: cielo da sereno a poco nuvoloso ora sulla nostra regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 9 gradi, il vento a 53 km orari da est-nord-est, dunque bora con raffiche a 80 km orari. A Udine Gorizia ci sono 9 gradi e 5 decimi, 9 gradi a Pordenone, 3 sul Piancavallo, 2 gradi a Tarvisio, 3 gradi e 5 decimi a Forni di Sopra, 6 gradi a Tolmezzo, 1 grado a Sappada, meno 5 gradi sullo Zoncolan, meno 6 sull'Ussari e 10 gradi a Grado Lignano. Secondo l'ARPA oggi pomeriggio avremo cielo sereno su tutta la regione, vento in progressivo calo e in serata resterà bora moderata soltanto a Trieste. Domani al mattino cielo in prevalenza sereno con probabili gelate in pianura, dal pomeriggio poco nuvoloso al più variabile. Di notte al mattino soffierà ancora bora moderata a Trieste. Giardini pubblici chiusi per bora oggi a Trieste, lo ha deciso il comune in considerazione del meteo avverso. Nella notte le raffiche hanno superato i 90 km orari e c'è il rischio di cadute rami. La riapertura, fa sapere un comunicato, avverrà non appena le condizioni lo permetteranno. Ora voltiamo pagina, si è sbloccata la situazione al Teatro Verdi con la nomina ufficiale dopo 3 mesi di attesa di Giuliano Polo, una conferma per il soprintendente che aveva già guidato la Fondazione Lirica dal 2021. Lo abbiamo intervistato. Dopo 3 mesi a cefalo il Teatro Verdi riparte in continuità. Sì, sicuramente ripartiamo in continuità. La programmazione di quest'anno era già stata stabilita per tempo e quindi sulla stagione in corso non ci sono problemi. Tra l'altro, diciamo, la stagione in corso sta andando molto bene, abbiamo dei riscontri particolarmente positivi dalla biglietteria, sono aumentati in maniera significativa il numero degli abbonati sia alla stagione lirica sia alla stagione sinfonica, che ha registrato diversi sold out. Adesso si tratta di continuare nella normalità, diciamo, della programmazione che un teatro deve affrontare. L'iter della sua nomina è stato abbastanza tormentato, ora si continua con serenità? Sì, senz'altro, i motivi per cui è stata così lunga mi sfuggono, non posso intervenire, non sono nelle mie disponibilità, per cui non mi pongo neanche la domanda del perché. Sicuramente, diciamo, adesso si continua nell'ordinario e quindi con la serenità necessaria per tenere insieme questa istituzione con una proiezione futura. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. In prefettura Pordenone questa mattina una riunione sulle problematiche relative alla connessione dati e voce nella montagna pordenonese. Con la regione partecipano i sindaci dei territori interessati, l'Università di Udine e gli operatori telefonici. Oggi abbiamo cercato di definire un programma, abbiamo istituito un tavolo tecnico che presumibilmente si riunirà prima del prossimo Natale, a cui parteciperanno tutti gli operatori, gestori della telefonia, l'Enel, l'Università di Udine, la Facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni, con una rappresentanza dei sindaci delle vallate, e abbiamo anche definito un cronoprogramma di lavori che riguarda soprattutto la possibilità di attuare un modello immediatamente utilizzabile per sopperire a quelle che sono le carenze più gravi e capire insieme ai comuni dove poter, con l'aiuto della regione sia istituzionale sia finanziario, che ci ha già preannunciato dall'assessore Callegati, poter individuare delle aree dove poter installare dei tralicci per definitivamente, diciamo, realizzare dei ripetitori permanenti. Questo è il cronoprogramma che ci siamo dati, che speriamo possa nel breve periodo, mi riferisco quando dico breve periodo, nell'arco di qualche mese, 3, 4, 5 mesi, poter dare già una risposta ai cittadini di quelle zone. Nell'intervista di Lara Zani abbiamo sentito il prefetto di Pordenone, Michele Lastella. L'8% della popolazione studentesca dell'Università di Trieste è rappresentata dagli stranieri che scelgono questa città perché molte lezioni vengono fatte in inglese, perché l'Ateneo offre borse di studio e altri vantaggi. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione. Well, I'm from Turkey. Vengo dalla Turchia, sono arrivato a settembre e ho scelto Trieste per molte ragioni, ma soprattutto perché la scuola di business è molto buona. Il mio nome è Kimia e vengo dall'Iran. Ho scelto Trieste perché ho sentito da altri studenti che è una città friendly per i giovani universitari. Questo mi ha influenzato molto. L'Università di Trieste è l'ateneo italiano con più studenti stranieri, l'8% della popolazione accademica rispetto alla media nazionale che si attesta al 3%. È il frutto della scelta di 15 anni fa di introdurre le lezioni in inglese nel corso di laurea triennale, quando negli altri atenei l'inglese si utilizzava a partire dalla magistrale. Trieste inoltre offre diversi vantaggi in termini di diritto allo studio. Donata Vianelli, rettrice dell'Università di Trieste. È stata una scelta dell'università quella di accettare studenti meritevoli più che selezionati in base al reddito, ma anche perché abbiamo molto supporto in termini di diritto allo studio da parte della regione. Ovviamente devono essere bravi per mantenere i requisiti. Gli studenti provengono da tutte le parti del mondo, ci sono bengalesi e pakistani, negli ultimi anni turchi, siriani, algerini, libanesi e iraniani, come Yas Moradi, 23 anni, che studia economia. Alcuni dei miei amici erano già qua a Trieste e mi hanno raccontato com'è la città e l'ambiente, è molto amichevole, anche molto bene per gli studenti stranieri. E perché io volevo vivere in una città tranquilla, io ho scelto Trieste. Moltissimi tornano nel loro paese perché si sono formati e vogliono anche entrare in quella che è la classe dirigente del paese, e altri vanno in altri paesi europei, quindi hanno una carriera internazionale, e altri riescono ad integrarsi e a lavorare per le nostre aziende. Io voglio davvero continuare con magistrale sempre in questa facoltà. e vediamo dopo cosa succederà. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. Gli appuntamenti culturali di oggi: nel pomeriggio a Cividale l'inaugurazione della mostra Holy Pop di Otan Re col ministro della cultura Giuli. A Udine lo storico Alessandro Barbero presenterà alle 18 il suo ultimo libro dedicato a San Francesco, teatro nuovo già tutto esaurito. Sempre a Udine, alla libreria Tarantola, alle 18 si presenta Sogno di un patriarca eletto dell'illustratore Luigino Peressini. L'autore ne parlerà con Angela Borzacconi, direttrice del Museo Archeologico di Cividale. Serata inaugurale per la 7ª edizione di Libri sotto tiro, rassegna promossa dal comune di Mortegliano. Primo incontro quello con Gianmarco Menga, giornalista e autore de Il delitto di Saman Abbas, Il coraggio di essere libere, un racconto che invita a riflettere sul valore della libertà e sul coraggio delle donne, alla Casa della Gioventù di Lavariano alle 20. Un'altra vita, Carlo, la famiglia Michelstetter, l'emigrazione, l'America è il titolo della lezione magistrale che Sergio Campailla, il massimo studioso dell'autore goriziano, terrà nel capoluogo isontino alla sinagoga di Via Ascoli alle 17. Cominciano a Trieste gli appuntamenti di Aspettando il premio Lucchetti in collaborazione con Bonaventura. Al Teatro Miela alle 20:30 andrà in scena A come Srebrenica di e con Roberta Biaggiarelli, dedicato alla memoria del genocidio del 1995. Domani Biaggiarelli presenterà un altro suo testo diventato di fortissimo attualità, Pasi Sniper sui cecchini di Sarajevo. L'abbiamo intervistata. Il genocidio di Srebrenica ancora oggi è qualcosa di molto pulsante, di molto vivido, soprattutto se si va in quei territori e se si frequentano. Io quest'estate, proprio perché mi sono appassionata a questa vicenda storica dalla fine della guerra dei Balcani, è un genocidio di cui si sa ancora troppo poco e di cui le persone non hanno ancora una coscienza reale, non si capacitano di quello che è veramente accaduto in quei luoghi. Srebrenica è un luogo ancora oggi tenuto abbastanza al buio. Manca anche un'assunzione di responsabilità. Assolutamente, dall'Europa soprattutto un'assunzione di responsabilità e anche considerare questa guerra chiusa. In realtà la guerra non c'è più in quei luoghi, per fortuna, ma di fatto i patti di Dayton permettono ancora oggi di proseguire la guerra in quei territori con altri strumenti. Non è di certo un territorio pacificato. Quello che resta dopo 30 anni, che cos'è? Io quello che ci leggo è una grande fragilità, soprattutto in Bosnia e Erzegovina, un impoverimento sociale, culturale, soprattutto economico, di tanta diaspora bosniaca che è scappata da quei luoghi durante gli anni duri degli assedi, della pulizia etnica, ma soprattutto tanti giovani bosniaci e non solo, che ancora oggi continuano a scappare da quel luogo. Eppure, diciamo, la Bosnia può essere considerata geograficamente il centro dell'Europa, se consideriamo il territorio europeo dall'Italia al Portogallo, ma è un luogo sul quale non ci interfacciamo, non ci relazioniamo. Fa notizia ogni tanto, sale agli albori delle cronache e poi di nuovo sparisce, si legua. Qualche giorno fa è stata aperta un'inchiesta sui cecchini del weekend, appassionati di caccia che andavano e pagavano per sparare apposta contro i civili. Emerge in tutta la sua nefandezza quello che i eminenti giornalisti che hanno frequentato la guerra dei Balcani da dentro ne avevano già parlato, sapevamo che operavano e che avevano fatto questo salto di specie, insomma, dalle battute di caccia agli animali erano passate le battute di caccia sugli uomini. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, il piccolo festival dell'animazione fa oggi tappa a Pordenone, dove le proiezioni serali dei lavori in concorso dalle 20:30 saranno ospitate da Cinema Zero. Piatto forte della serata, la retrospettiva dedicata all'ospite d'onore, l'argentino Juan Pablo Sarameglia, autore del celeberrimo Luminaris, il corto d'animazione più premiato di sempre. Questa mattina Sarameglia ha dato vita a una masterclass con gli studenti delle scuole primarie e secondarie. In 2000 hanno partecipato quest'anno alle iniziative legate al piccolo festival organizzato da Viva Comics. Domani il PFA, il piccolo festival dell'animazione, approderà alla Visionario di Udine, giovedì all'Ariston di Trieste e venerdì tornerà a San Vito al Tagliamento per la prima di tre giornate che culmineranno poi con le premiazioni. Gli altri spettacoli di oggi, omaggio ai Beatles a Gemona, stasera al Teatro Sociale, protagonista la FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni con i brani più celebri dei 4 teatro di Liverpool in versione sinfonica. A Trieste, nuovo appuntamento per la rassegna di teatro contemporaneo Ai Fabbri 2 della Contrada, oggi e domani. Al teatro di Via dei Fabbri andrà in scena La guerra svelata di Cassandra di Salvatore Ventura con Gaia Aprea, la testimone inascoltata di un destino di distruzione davanti alle macerie dei nostri giorni, quelli di Kiev e di Gaza. La regia è di Alessio Pizzek, l'inizio alle 20:30. Chiudiamo con lo sport. Basket, torna in campo questa sera la Pallacanestro Trieste, impegnata a Istanbul contro il Galatasaray per la fase a gironi della Basketball Champions League. La formazione turca finora non ha sbagliato una gara, imponendosi in 4 partite su 4, la più combattuta proprio quella dell'andata contro i biancorossi al Palarubini, chiusa con un solo punto di margine. Trieste sta attraversando una fase difficile, cerca sul campo del Galatasaray o un riscatto, almeno le conferme che qualcosa deve cambiare per non compromettere una stagione cominciata con grandi ambizioni che non hanno ancora trovato conferma. La partita comincerà alle 18. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Gerlinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Sono le 12:56, prossima edizione del GR regionale alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.